eccoci qua nuovamente in diretta, martedì 5 dicembre, Bologna imbiancata e conseguenti disagi. Mi raccomando, per quanto riguarda la quotidianità, lo spostamento in strada e anche non solo per la guida, ma anche le conseguenti aspetti di disagio per le cadute in seguito a neve e poi ovviamente quello che sarà per quanto riguarda quel paciugo che si crea e andrà a congelarsi per le basse temperature. Ciò non toglie che ovviamente si continua a fare colazione e ci mancherebbe, anzi la facciamo ancora più intensa, e quindi diamo un piccolo spazio a quella che è la lettura delle prime pagine. Bologna, medaglia d'argento come qualità della vita, la classifica stilata dal Sole 24 Ore per il 2023. Ieri si è tenuto l'incontro in sala borsa, auditorium Enzo Biagi, per quanto riguarda insomma le motivazioni. Da appunto ho ottenuto una piccola sintesi per quanto riguarda questo merito. Ecco, intanto leggiamo dalle prime pagine: Bologna, qualità della vita, il resto del Carlino felici ma insicuri. Beh, il Carlino deve, la nostra città passa da prima a seconda nella classifica del Sole, e il questore dice un piano per la stazione. Il Corriere di Bologna, più attinente insomma una cronica, quella qualità della vita, città da primato, classifica del Sole 24 Ore, ceduto il primo posto a Udine, però Bologna si piazza a seconda. Il report, il sindaco Lepore, per noi è una conferma importante ai vertici per salute, società, demografia, cultura e laureati. Allora, ne ho parlato, come ho detto in sintesi, con chi ha co-condotto questa indagine, redattrice del Sole 24 Ore, Marta Casadei, e appunto sentiamo questa breve conversazione. Quindi oggi abbiamo trovato questa bella realtà del Sole 24 Ore che porta la medaglia d'argento a Bologna per quanto riguarda qualità della vita, e siamo con Marta Casadei insieme a Michela Finizio, tra le autrici dell'indagine. L'indagine innanzitutto racconta il benessere nelle province italiane secondo 90 indicatori. Sicuramente Bologna insomma, è una testa di serie in questa indagine, perché l'anno scorso ha già vinto insomma 5 volte. Quest'anno si posiziona al secondo posto, quindi con la medaglia d'argento, ed è spinta in alto da molti indicatori: quelli sulla ricchezza, perché è terza nella classifica di ricchezza e consumi, quelli sull'istruzione, che la fanno salire in cima alla classifica di demografia, e sicuramente insomma è un territorio vitale, pieno di giovani, quindi ha molti punti a favore da questo punto di vista. Per quanto riguarda la cultura? Sicuramente ha tanti parametri elevati, sia per esempio nella partecipazione elettorale, che è insomma uno dei nostri parametri della cultura, che fa insomma dimostra come ci sia volontà insomma di partecipare alla vita civile e politica della città. E con quali enti, con quali istituzioni vi siete confrontati? Allora, i 90 indicatori provengono tutti da fonti certificate, molti vengono dall'Istat, altri da Infocamere, altri da Istituto Tagliacarne, che è un istituto, l'istituto delle Camere di Commercio. Ci sono dati da IQVIA, con una società che ci dà una fotografia per esempio sull'utilizzo dei farmaci, quindi insomma abbiamo la SIAE per quanto riguarda la cultura, quindi sono tutti enti certificati che forniscono questi dati, noi li prendiamo e insomma li selezioniamo anno dopo anno, anche per diciamo dare un po' la testimonianza dell'evoluzione della società attraverso questa indagine. Bene, ne siamo onorati e grazie. Grazie a voi. Ne prendiamo atto, insomma, certo dalla prima posizione non è che sia stata sbalzata, no, è arrivata a seconda, complimenti a Udine, ribadisco, questa è la classifica del Sole 24 Ore, che però è un polso, insomma, se vogliamo, per determinati aspetti riguardo la nostra città, quindi l'ho voluto portare in questa piccola costola, in questo piccolo block notice della lettura delle prime pagine, ho voluto darne spazio anche per quanto riguarda riguarda il percorso di diretta nel Breakfast Club, quindi Last Minute, come vi ho detto, che invece ci porterà a Ravenna per un'esposizione che apre domani, una mostra dedicata alla ricerca vocale di Demetrio Stratos. Ne abbiamo parlato con Oderso Rubini, quindi sigla e poi conversazione con Oderso Rubini. A tra poco. Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Iniziamo il nostro viaggio da Bologna verso la città bizantina di Ravenna e siamo in compagnia di Oderso Rubini, che innanzitutto saluto. Ciao, buongiorno Oderso. Ciao, ciao a tutti. Allora, ci sarà l'apertura, che è mercoledì 6 dicembre alle 18 a Palazzo Malagola di Ravenna, inaugurazione, l'esposizione dedicata alla ricerca vocale di Demetrio Stratos. Di che si tratta, Oderso, più nel dettaglio? Ma allora, abbiamo cercato, visto che lì nella sede dove ci sarà la mostra c'è anche la sede delle Albe e del Palazzo Malagola, dove le Albe fanno dei corsi di alta formazione sulla voce internazionali, e allora passa la soluzione più naturale portare lì anche tutto l'archivio di Demetrio, che ovviamente è un archivio ampio e variegato, non dal punto di vista musicale sonoro, perché più o meno quello che lui ha fatto è più o meno tutto già abbastanza noto, nel senso che è stato pubblicato in diversi dischi eccetera eccetera, però da una visione comunque d'assieme della esperienza vocale di Demetrio, perché poi ci sono, c'è la parte dei video, ci sono le partiture fatte da Cage con i suoi appunti, fatte da Cage per Demetrio con i Mesostics, che poi Demetrio ha reinterpretava dal vivo. Ci sono alcuni degli oggetti che lui ha utilizzato durante le sue performance, tipo le papperelle della settimana internazionale della performance di Bologna del 78, altri documenti suoi originali e oggetti che hanno fatto parte della sua vita. Quindi ci sarà una stanza immersiva per l'audio, una stanza immersiva per il video, una stanza con queste partiture scritte per lui e un'altra stanza con le memorabilia, diciamo così, di Demetrio. Sì, una mostra originale e completa. E la provenienza di tutte queste opere? La provenienza è la famiglia di Demetrio, in particolare la moglie Daniela Ronconi e la figlia Anastasia, che vivono ancora a Sasso Maggiore, come quando era ancora vivo Demetrio, con cui siamo entrati in contatto tramite Paolo Spedicato, che appunto cercava una soluzione per costruire questo archivio memoriale, diciamo così, su Demetrio, e è arrivato a me. Io a un certo punto, avendo qualche contatto appunto con Ravenna, con Malagola, che era appena stata inaugurata, ho pensato, ma perché non proviamo a chiedere a loro, a quelli delle Albe, se sono interessati, e loro ovviamente erano entusiasti dell'idea, per cui abbiamo prima fatto un lungo lavoro di schedatura delle cose che c'erano a casa della famiglia, ovviamente, poi le abbiamo riordinate, materiale fotografico ovviamente a strafottere dai vari fotografi che hanno fatto le copertine, le foto a Demetrio in concerto, con gli area, insomma, c'è veramente di tutto per raccontare l'esperienza musicale di Demetrio. Pugni chiusi, non ho più speranze, in me c'è la notte più nera, occhi spenti nel buio del mondo, per chi è di pietra come me. il sole tiepido, se tu amore, donna, donna, guida me, pugni chiusi, non ho più speranze in me. Agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Grazie a Oderso Rubini, produttore discografico, storico per quanto riguarda la ricerca a 360 gradi e per quanto riguarda l'importanza dei movimenti New Wave nella città di Bologna e non solo, ovviamente. Ora ricopre una carica istituzionale, collabora con tutto ciò che è cultura per la regione Emilia-Romagna. Grazie per questo contributo di presentazione per quanto riguarda l'apertura, la mostra dedicata alla ricerca vocale di Demetrio Stratos. Mercoledì 6 dicembre alle 18 a Palazzo Malagola di Ravenna verrà inaugurata la mostra, che avrà, come sentiremo da questo frammento di dialogo con Oderso, anche motivi di continuità in mostra. E la mostra sarà visibile fino al 22 dicembre. Ci sarà una continuità anche? Visto la sì, sede? Perché la stanza immersiva sull'audio rimarrà fissa, okay. Quindi visitabile, fruibile anche dopo. Una seconda, forse saranno due le stanze. Adesso vediamo alla fine di questo primo periodo di mostra come sarà andata la cosa, però sicuramente una stanza rimarrà assolutamente fruibile e dedicata a Demetrio. Poi sì, dato che i materiali sono tanti, ne stanno venendo fuori adesso che la gente ha imparato che ci sarà questa cosa. Io ogni tanto ricevo qualche contatto, qualche telefonata da qualcuno che dice: ma io quella cosa lì di Demetrio, per esempio, mi ha chiamato Claudio Chianura da Milano, dice: ma io c'ho il master di Metradora, glielo posso dare? Dico: certo, ci mancherebbe, vivi. E poi c'è quest'altra cosa che non ho ancora capito qual è il contenuto, però a casa della famiglia Pattaccini, Piero Pattaccini è stato il compositore del Battagliero, sì, inno della Emilia sul liscio più o meno, su quelle logiche lì. E il figlio Hiller invece, che ha poi prodotto un mucchio di altre cose, tra cui non anche questo viso. Comunque c'è questa casa che la nipote sta cercando di far diventare casa d'artista. Sono andato a fare una visita nello studio che loro usavano per registrare le loro cose e ci sono quattro nastri multipista, otto tracce degli Area. Però non so se c'è ancora anche Demetrio oppure no, se l'hanno registrato prima che Demetrio poi se ne andasse, oppure sono registrazioni fatte dagli Area in un secondo tempo. Io spero che ci sia anche Demetrio. Certo. Insomma, hai aperto un po' un vaso di Pandora. Diciamo che ne valeva la pena, certo. Sia per la qualità dell'artista, un pochino anche per la famiglia, che insomma si sentiva un pochino isolata. A Milano, per esempio, l'archivio non l'ha voluto prendere, perché ovviamente la prima destinazione utile sarebbe stata quella di Milano, no? Perché insomma, bene o male, la sua carriera con gli Area l'ha fatta tutta a Milano, in Lombardia, però pur vivendo appunto a Salso Maggiore con la moglie. E poi lui era presente sul treno di John Cage, sì, che fece una performance anche sul treno, anche quella registrata in audio, molto bella da ascoltare, insomma, da fruire. Quindi insomma, materiali ce ne sono tanti. Sono sicuro che sarà una gran bella mostra gradita, spero, a tanti. Io ti ringrazio per questa anticipazione e ti auguro buona giornata. Grazie Oderso. Anche a voi, ciao a tutti. Giocare col mondo facendolo a pezzi.